edizione. Le 6, 13 minuti e 27 secondi, arriva, viene diffusa una bozza del comunicato finale sul tavolo dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali del G20, bozza arrivata nella notte, la riunione è in corso a Washington. Nel testo si fa ancora riferimento ad un eventuale aumento delle risorse per il Fondo Monetario Internazionale, però il paragrafo, secondo fonti citate dalle agenzie, potrebbe essere aggiunto dopo il confronto. Si dice che la crescita 2012 sarà ancora moderata, mentre persistono significativi rischi al ribasso. Mentre il ministro delle finanze francese, sempre da Washington, dice che la Spagna e l'Italia ci hanno presentato quello che i governi stanno facendo, che è molto coraggioso, hanno fatto molti progressi e stanno facendo importanti riforme del lavoro. Prima edizione. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, veniamo a un quadro delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, che hanno aperture molto variate, almeno i principali a dir la verità, perché c'è chi punta sulla politica, come fanno il Corriere della Sera e il Messaggero, chi sull'economia, ma anche qua diversificando parecchio, perché Repubblica si occupa della crescita, la Stampa della disoccupazione, il Sole 24 Ore del nuovo della squadra, il nuovo presidente di Confindustria e soprattutto delle sue parole sulla lotta alla burocrazia. È da qua che partiamo. Squinzi che dice: lotta alla burocrazia per tornare a crescere. La giunta approva programma e squadra, si allargano i consensi. Marcegaglia dice: un bel dibattito, si è ritrovata un'unità significativa. Il presidente designato di Confindustria sulla semplificazione, il premier in linea con noi, mi fa piacere. Il commento in prima pagina è a firma di Fabrizio Galimberti, parla di crescita ma parla anche di questi temi, del tema della burocrazia. Liberare l'Italia da lacci e lacciuoli, questo il titolo. Del resto, proprio su questo tema è affiancato al titolo principale un servizio sulle parole di ieri del Presidente del Consiglio Mario Monti, che dice: i tempi della pubblica amministrazione scoraggiano l'impresa. Vertice al Quirinale, al Colle faro su crescita e rapporti politici. Troverete molto spazio sui quotidiani a questa a questi dati che sono giunti ieri dall'Istat. Sale il numero di chi non cerca più occupazione, 3 milioni di inattivi. Nel frattempo ci informa il Sole, altro tema importante, l'accordo vicino sui crediti con la pubblica amministrazione. 10 miliardi la prima tranche di crediti da sbloccare, sarà firmato quasi certamente all'inizio della prossima settimana l'accordo tra banche, imprese e governo per sbloccare appunto questi crediti. Ancora sul Sole 24 Ore, la vicenda Ligresti, che ha un forte spazio come era prevedibile. Sulla prima pagina il caso Fonsai, Premafin è stato sequestrato il 20%, ve lo riferivamo poco fa all'interno del giornale radio. Ligresti indagato per aggiottaggio. Questo il quadro per quanto riguarda il Sole 24 Ore, che dà anche spazio alla politica, tanto su Lega Nord quanto sui fondi ai partiti, mentre Stefano Folli firma un commento che si intitola "Cresce la nevrosi politica". È proprio da qua che partiamo con il Corriere della Sera, perché il titolo d'apertura è: partiti si riaprono i giochi, Pisano oltre il PDL, Casini lancia il nuovo movimento, perché appunto ieri si è sganciato sostanzialmente l'ex ministro dell'interno Beppe Pisano, portandosi dietro 29 parlamentari con questa iniziativa oltre il PDL. E poi si parla sul Corriere della Sera di tentazione delle urne negli schieramenti, si rischia in sostanza il voto ad ottobre. Sempre il Corriere della Sera riporta due cose. Innanzitutto la questione della Lega, che rimane a centropagina un po' dappertutto sui quotidiani, ossia la casa pagata a Calderoli e Bossi che dice: non c'è reato, sono soldi nostri. Lo avete sentito poco fa in apertura del giornale radio. Due vicende interessanti raccontate dal Corriere della Sera. La prima è, con tre foto, il reportage di due studenti italiani. Reportage, e perché di due studenti italiani? Perché è da un luogo quasi inaccessibile. Noi nel labirinto Corea, di Giovanni B. Conte e Ludovico Tallarita, studenti italiani della London School of Economics, per una settimana in Corea del Nord, a Pyongyang, capitale dell'ultima monarchia rossa. Ci sono anche le foto, quindi assolutamente da leggere. E l'altra storia che vi vogliamo segnalare, anzi, le altre due storie che vi vogliamo segnalare, sono due storie di cronaca giudiziaria che riguardano innanzitutto la vicenda Dacco Formigoni, ossia le presunte vacanze pagate dal faccendiere Dacco al presidente della Lombardia. Ebbene, quelle vacanze sull'isola dei Caraibi saldate da Dacco. Ci sono gli estratti conto delle carte di credito per l'inchiesta sui 56 milioni di fondi neri della Fondazione Maugeri, pagamenti appunto per migliaia di euro ad un albergo ai Caraibi nello stesso Capodanno nel quale si pagava un biglietto aereo intestato un anno a Roberto Formigoni, l'anno dopo al fratello. E ancora, la Vitola parla con IPM, ci informa dalla prima pagina Fiorenza Sarzanini. La Repubblica, l'apertura sulla crescita, ora tocca all'Europa, questo è tra virgolette. Che cos'è? Sono le parole che avrebbe rivolto il capo dello Stato ieri, le cose che avrebbe detto il capo dello Stato ieri, Giorgio Napolitano, al presidente del Consiglio Mario Monti nell'incontro che c'è stato. E c'è un retroscena, tornano in retroscena, il premier al Colle dice non temo trappole. Questo il quadro, mentre, come avete sentito, sul Corriere della Sera si parla della tentazione delle urne per gli schieramenti, mentre Carmelo Lo Papa firma un altro retroscena, manovre di primavera per il grande centro. Ora, a centropagina, come si diceva, c'è ancora la questione della Lega e della casa pagata a Calderoli, del fatto che si dà molto risalto al fatto che è saltato il vertice Bossi-Maroni. Ieri mattina vi abbiamo raccontato che era previsto per la giornata. Ebbene, ieri non c'è stato, e Bossi ha detto, tra l'altro, forse Maroni lo vedrò oggi. E poi ci sono appunto tutti i regali di Dacco a Formigoni. Poi la moglie dell'ex assessore che dice ecco come funzionava. Questo il quadro dalla Repubblica, che ci racconta anche un'altra bella storia. Il leader della SPD, tedesca, niente di meno, Sigmar Gabriel. Perché è in prima pagina? Perché voglio fare il mammo, titola Repubblica, forse è un po' un'espressione un po' abusata, però quest'estate prenderà 3 mesi di congedo parentale e lascerà la guida del più antico partito della sinistra europea. Ecco, una sorta di piccola rivoluzione. Questo il quadro per quanto riguarda la Repubblica. L'apertura della Stampa è dedicata invece al lavoro, 5 milioni senza lavoro e 3 non lo cercano neppure. E poi c'è la questione del ticket, via l'esenzione per i disoccupati, e il governo che dice solo un refuso. Cosa c'è da segnalare sulla Stampa? C'è da segnalare l'intervista con Marina Berlusconi, che dice il governo deve essere più incisivo, e poi dice la crisi ecco come la supererà Fininvest. Ho apprezzato l'intervento sulle pensioni, ma liberalizzazione e privatizzazione hanno avuto scarso impatto e la riforma del lavoro è un mezzo pasticcio. Queste le parole di Marina Berlusconi, intervistata dalla Stampa. Stampa che in prima pagina riporta una doppia foto. Che cosa è successo? Che ieri Barack Obama, nell'ambito ovviamente della sua campagna elettorale, è andato nell'autobus nel quale nel 1955 Rosa Parks sfidò le leggi dell'Alabama, una nera sedendo in un posto per bianchi sull'autobus. Ebbene, Obama ieri è andato su questo stesso autobus, che viene conservato chiaramente come una reliquia, e l'ha imitata. Insomma, c'è la foto di Obama seduto che guarda fuori esattamente come Rosa Parks. Il Messaggero parla dello strappo dei senatori del PDL. In apertura, PDL lo strappo dei senatori, Pisanu e altri 28, ora una forza liberal democratica. L'inchiesta sulla Lega ancora in primo piano, e Calderoli e l'affitto pagato, e un commento dal Quotidiano Romano che così si intitola: quella dolce vita padana tra il Gianicolo e Via Veneto, a firma Mario Aiello. In prima pagina il Messaggero, oltre ai 3 milioni che non cercano più lavoro, nel titolo economico ci mette anche un'altra questione importante. Abbiamo riferito poco fa del ministro delle finanze francese che parlava dal Fondo Monetario Internazionale. Ebbene, Francia a rischio rating, borse giù, è il titolo del Messaggero. In primo piano anche la vicenda Premafin, e c'è una storia che arriva da Roma, una storia di cronaca che arriva da Roma in primo piano sul Messaggero. Travolto sulle strisce da un'auto pirata, un ragazzino di 12 anni è gravissimo al gemelli. Prima edizione. Sono le 6:34 minuti e 45 secondi, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchesi. Questa è Italia in controluce, il programma di Radio 24 che ogni giorno, ormai da 2 anni, indaga con reportage esclusivi raccontati in punta di penna sulla cronaca, la politica, il costume italiano. Sono 2 edizioni quotidiane, 6:30, 13:30, che raccontano l'Italia. In studio Daniele Biacchesi. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Evento sismico. Attenzione, scossa, tutti sotto il banco. L'emergenza è finita, tornate tutti su. Questo video è stato realizzato da una scuola di Viareggio, una delle tantissime scuole che hanno partecipato al premio di cittadinanza attiva per quegli istituti che si sono impegnati sui temi della sicurezza. Un premio intitolato a Vito Scafidi, il ragazzo di Rivoli morto 4 anni fa nella scuola Darwin, mentre era seduto al suo banco, schiacciato da una trave crollata dal soffitto. Troppo poco si è fatto da allora per mettere in sicurezza le nostre scuole che tanto ne avrebbero bisogno, anche se con la morte di Vito la scuola e le istituzioni hanno preso una certa consapevolezza che gli interventi sono davvero necessari, come ci racconta la responsabile scuola di cittadinanza attiva Adriana Bizzarri. Secondo noi sì, ma purtroppo in modo contraddittorio, poi parliamo di scuole ma anche di istituzioni inevitabilmente, no, pubbliche. Perché da una parte ci colpisce come c'è la volontà, no, anche di mantenere viva questa memoria proprio di questo evento, anche per impegnarci di più tutti su questo fronte, però dall'altra la mancata intitolazione del Darwin, per esempio, a Vito, no, rimane comunque una ferita aperta indicativa del fatto che la sua scuola stessa non riesce, no, a superare questo fatto, questo trauma, a dare un senso a quella storia. Come anche quello che colpisce è che però, nonostante la buona volontà anche del governo attuale, di fatto non si riesce a uscire da queste pastoie burocratiche che semplificherebbero la vita almeno agli enti che i fondi li avrebbero per cominciare i lavori. Il Darwin per esempio è uno di questi, a 4 anni di distanza i lavori non sono cominciati, è uno scandalo. A 4 anni dalla morte di Vito Scafidi in quella scuola ancora non sono stati effettuati lavori. Esatto, questo unito al fatto che i risarcimenti assicurativi per i bambini di San Giuliano, per le loro famiglie ovviamente, come per la famiglia di Vito e dei suoi compagni feriti, ricordiamo che ancora, insomma, Andrea Macri, il suo compagno di banco, è attualmente, insomma, una lesione permanente, ecco, anche questi non sono stati fatti. Quindi purtroppo questi sono segnali che fanno male e che testimoniano il fatto che ancora le nostre istituzioni siano poco attente, per non dire sorde, a questo. Italia contro luce, la prima edizione, questa puntata come tutte le altre in podcast su radio24.it. Torniamo alle 13.30 con la versione più lunga di Scuola in contro luce di Piera Ceci. Sono le 6:38 minuti e 53 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Facciamo il punto su quello che è successo ieri in Parlamento e che riguarda una tassa, insomma, che come ha scritto l'altro giorno il Sole 24 Ore si è già candidata ad essere la più odiata dagli italiani, oltre che la più complicata, ossia l'IMU, perché a quanto pare ci sono buone notizie che arrivano dagli ordini del giorno e non solo. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a te Simone e agli ascoltatori, come dicevi buone notizie, sempre che siano queste confermate poi al Senato. Infatti ieri alla Camera un ordine del giorno targato PDL è passato e propone che l'IMU 2012 sia una tantum, quindi verrebbe pagato l'IMU soltanto nel 2012, secondo questa proposta del PDL, appunto, di Angelino Alfano, che è passata come sono passati tutti gli altri ordini del giorno, che però lo ricordiamo, impegnano il governo ma non lo vincolano. Siamo soddisfatti, ha detto Angelino Alfano, il governo si impegnerà a trovare risorse alternative e noi lo aiuteremo a farlo. Ieri dicevamo, appunto, il decreto legge sulle semplificazioni che contiene l'IMU ha ricevuto il via libera alla Camera, il testo passa ora al Senato e il via libera definitivo è atteso per martedì. Tra le altre novità, la possibilità di pagare in 2-3 rate ma solo per la prima casa, e poi la proposta che è stata accolta di abbattere del 50% la base imponibile per le dimore storiche, mentre per le case di anziani e italiani all'estero i proprietari potranno non pagare la tassa solo se questa sarà finanziata dai comuni. Intanto il Censis lancia l'allarme sulla bolla immobiliare. Secondo i ricercatori, per far fronte alla nuova tassazione IMU, le famiglie metteranno in vendita le seconde case, con un effetto sui prezzi degli immobili che potrebbero anche crollare del 20% a fine anno. E per ora è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto. Noi adesso cambiamo decisamente argomento. Oddio, nemmeno troppo, perché parliamo di un immobile, sempre, ma di un immobile davvero grosso, ossia lo stadio di San Siro. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sì, è un immobile di grandi dimensioni, ma sicuramente interessa agli appassionati sportivi, tutti coloro che, parliamo di San Siro, vanno allo stadio a vedere delle partite importanti. Il problema è sempre quello, che nella scala del, la scala del calcio è un pantano. E sì, dunque... Si sta cercando di trovare una soluzione, e la soluzione sarebbe il famoso campo sintetico, quello che così si evoca da molte parti. In Italia ce n'è già un paio, uno a Novara e uno a Cesena, però stadi di, chiamiamolo, di periferia e calcistica. E quindi la notizia è che entro probabilmente il 15 giugno si dovrebbe partire con questi nuovi lavori. Il tutto è nato, ricordate, dopo la partita Milan-Barcellona, quando così si vide a un certo punto Messi che stava tirando una punizione e schizzano via Zolle dal terreno, lui che si guarda attorno disperato, e poi ci fu la denuncia della società catalana, le proteste di Guardiola e tutto il tantam mediatico che ne conseguì. Da allora Galliani ha capito che si è arrivati alla necessità di cambiare. Anche l'Inter, tra l'altro, ha avuto molti problemi, Ranieri era disperato, vabbè, non solo per l'Inter ma anche per il campo. E ricordiamo anche che Pazzini fallì un rigore clamoroso. Insomma, è maturo. Se le cose vanno come devono andare, probabilmente il campo nuovo, quello sintetico, dovrebbe essere pronto per il galà il cosiddetto trofeo Berlusconi, quello di metà agosto. Questo, quindi, è quello che pubblica oggi la Gazzetta. Sì, è una notizia che ha solo in esclusiva la Gazzetta dello Sport, l'abbiamo riportata perché ci sembra interessante. Ricordiamo che dal 1990 che c'è questo problema dello stadio di San Siro, perché con la nuova, dopo Italia 90, quando fu ristrutturato il campo, lo stadio di San Siro, il microclima interno è cambiato, proprio perché c'è tutta questa terzo anello, il tettuccio che impedisce la circolazione dell'aria, e sono stati spesi milioni e milioni di euro per mettere a posto questo campo inutilmente, quindi è matura questa decisione. prima edizione. Adesso, come si diceva, parliamo di musica, perché quella di domani sera sarà una serata speciale, una serata che vedrà ancora una volta Riccardo Chailly e Stefano Bollani suonare insieme alla Filarmonica della Scala Gershwin, e un evento che tra l'altro sarà trasmesso in un bel pezzo d'Italia. Dunque, sentiamo la nostra Adriana Fracchia. E con un concerto tra i più attesi della stagione della Filarmonica della Scala e dedicato interamente alla musica di Gershwin, che Stefano Bollani e Riccardo Chailly salgono ancora una volta sul palco del Piermarini. Il programma prevede come brani Catfish Row, Un americano a Parigi e Il concerto in Fa. La prova di questo concerto si tiene domattina alle 10.30 e sarà aperta al pubblico a titolo benefico. I biglietti sono già però tutti esauriti e sarà a favore di Bambini Senza Sbarre, un'associazione Onlus la cui missione è quella di mantenere la relazione figlio-genitore durante la detenzione in carcere di uno o di entrambi. Alla sera invece il concerto vero e proprio alla Scala, che sarà trasmesso in diretta in più di 100 cinema, come vuole il progetto di Unicredit. Per Bollani, grande pianista jazz, non è né la prima volta con la Scala né con la musica classica. In ambito classico si è esibito come solista con diverse orchestre sinfoniche come la Gewandhaus di Lipsia, diretta proprio da Riccardo Chailly, con il quale l'anno scorso ha inciso Rhapsodia in Blue e Concerto in Fa, sempre di Gershwin, disco che si è piazzato nella top 10 e ci è rimasto per settimane. Il jazzista è un uomo libero, è un po' fuori dai canoni. Come ti trovi tu in questa insolita veste alla Scala? Ma sai, diciamo che ho fatto il giro, si dice in Toscana, nel senso che se uno vuole stare davvero libero e fuori dai canoni, ogni tanto deve poter entrare nei canoni, per cui ogni tanto mi metto il vestito buono, l'orchestra molto buona, il direttore magnifico, e suono questa musica nota per nota, invece di passare il mio tempo a improvvisare. Però in effetti hai ragione tu quando dici che nel jazz ci sono pochi canoni e quindi una musica è anche un mondo piuttosto libero, ed è anche il motivo per cui io mi sono avvicinato a questa musica. Da bambino ovviamente ero innamorato dei suoni, e quando poi ho cominciato a intravedere il mondo che c'era dietro mi sono innamorato anche dei musicisti e del modo in cui vedevano le cose. Com'è nata questa collaborazione con Chailly? È nato da un concerto in Liguria in cui lui è venuto a sentirmi molti anni fa insieme a persone della Decca, e mi hanno proposto loro un progetto su Gershwin e sono stati molto avventati, devo dire, perché io avevo suonato solamente la Rhapsody in Blue con alcune orchestre, ma loro volevano incidere anche il concerto in Fa di Gershwin, per cui abbiamo cominciato a incontrarci nei momenti liberi di entrambi e abbiamo cominciato a lavorare sui dettagli, cosa a cui io non ero più abituato dai tempi del conservatorio. Ecco, vi siete trovati evidentemente bene. Molto bene, molto molto molto bene, decisamente, anche perché Riccardo è prima di tutto un grandissimo musicista appassionato di bella musica, non dei canoni di cui abbiamo parlato prima, per cui si può parlare con lui di tutto, per cui si può rintracciare sia in Gershwin che in Ravel o in Stravinsky o in altri autori, si possono rintracciare tracce di altre musiche e decidere di enfatizzarle, quindi i sapori del jazz, del tango, delle musiche popolari, senza paura di essere ancora oggi nel 2012 sacrileghi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere, una notizia che arriva da Messina, dove i carabinieri hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di presunti esponenti del clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento appunto è stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina. Ed è con questa notizia che chiudiamo prima edizione. Un ringraziamento come sempre a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, una buona giornata, ci sentiamo tra poco con il GR. We'll be right back.